scarafaggi fritti in Nuova Guinea. A Koh Phangan mi son fatto su fumigi di diarrea. Per purificare l'anima da ogni passata azione, ho succhiato a Nuova Delhi pure gli alluci a un santone. Ma il bacio in bocca è troppo intimo, sotto le ascelle passi pompe da ingoio pure. Ma il bacio in bocca è troppo intimo, lo dico le carte degli angeli e le pietre dure. Ho curato l'ernia coi clisteri ad Aramsala, e già che c'ero ho portato i miei omaggi al Dalai Lama. Allattare figli rovina le mammelle, io uso solo crema di placenta di cammelle. Faccio parte di una setta che va in cerca del Bigfoot, bevo solo caffè in grani usciti dal di dietro di uno gnu. Che tengo al karma e fare il bene mi dà gioia. Ho convinto anche il mio gatto a nutrirsi con la soia, perché il mio corpo è un tempio ed evito ogni alterco. Assumo proteine solo in pillole di sterco. Ma il bacio in bocca è troppo intimo, lotto per le balene, la sbiancatura anale. Ma il bacio in bocca è troppo intimo, me l'hanno rivelato gli UFO e la mia guida spirituale.